Abbiamo visto bandiere, aquiloni, astronavi. Abbiamo visto le foto in bianco e nero, l'Italia che vince i mondiali. Abbiamo visto le piazze e noi bambini invecchiare. Abbiamo visto le stelle da un marciapiede cadere e non farci del male. E ne abbiamo viste di occasioni, di orizzonti sopra i muri. Prima di dormire dimmi come stai. Nei tuoi occhi libri da sfogliare, l'arte di volersi bene che non hai imparato mai. Musicisti e ladri d'amore, prigionieri, studenti e signore, è tutto per noi, è tutto per noi. Bravi figli, pessimi padri, benedetti nei giorni sbagliati, è tutto per noi. Guardandoci a fondo, siamo la storia del mondo. Siamo la storia del mondo. Abbiamo visto la neve, le campane impazzire. Abbiamo odiato settembre, il telegiornale e avere purtroppo ragione. E ne abbiamo viste di stazioni, di valigie senza nomi e di case dove non ritornerai. Lunghe estati calde di cicale e di sere da godere che non finiresti mai. Musicisti e ladri d'amore, prigionieri, studenti e signore, è tutto per noi, è tutto per noi. Bravi figli, pessimi padri, benedetti nei giorni sbagliati, è tutto per noi. Guardandoci a fondo, siamo la storia del mondo. Siamo la storia del mondo. E abbiamo visto tante cose, riesci a ricordarle? Delle nostre facce qualche cosa resterà. E c'è poesia dentro un errore, la bellezza di provare. Pacifisti e grandi impostori, invitati che restano fuori, è tutto per noi. Storia del mondo.